giusto, lì tutti vivono in pace e in onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano, pien d'umanità. In sulle città.